Ma eccomi qui. Sono lì? No, sei qui. Sì, lo so che sono qui, ma loro sono lì. Sì, sono lì. Vado lì, stai qui. E la partita come va? Chi vince? Sì. Vinceva. Allora, Astor, scommettiamo su di te. Bravi, avete già vinto. Abitanti della Terra, congratulazioni. Avete vinto questa battaglia. Vi preghiamo di accettare un nostro guerriero come trofeo per la vostra vittoria.